La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, e come sempre grazie per l'ascolto in diretto in podcast della versione di Oscar da parte di Oscar Giannino qui dagli studi di Milano. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Come sa chi mi ascolta da anni, però anche chi non lo sapesse oggi può apprenderlo, ogni tanto noi deviamo dai temi del giorno nella nostra trasmissione della versione di Oscar e io vi propongo dei libri che mi hanno particolarmente colpito e che mi permetto di suggerirvi perché consentono una riflessione più approfondita al di là degli spot giornalistici concentrati in pochi minuti o nella lettura di in pochi secondi di un articolo su un giornale su alcune questioni fondamentali, sempre a mio giudizio. Allora oggi i temi sono due, ma sono molto collegati e hanno a che vedere con due libri. Il primo di cui parliamo è un libro, Feltrinelli, vi dico il titolo ma lo ripeterò, Non sono razzista ma la xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura, Feltrinelli. La prima mezz'ora la facciamo su questo tema con uno degli autori del libro, la seconda mezz'ora che è collegata perché il razzismo e la xenofobia comunque hanno a che vedere con questo grande ritorno del culto dello Stato nazionale, le patrie, la differenza di sangue, di religione, di cultura, eccetera, eccetera. Nella seconda parte andiamo sulla questione catalana e parleremo di un altro libro come spunto. Un altro libro il cui titolo è Un'idea elvetica di libertà, editrice La Scuola, e che parla proprio di un modello diverso, non l'Europa degli Stati, ma la Svizzera dei cantoni. Per intenderci, se le costituzioni non riescono ad adeguarsi ad autonomie più forti, sia l'integrazione, sia lo sviluppo economico, sia la sua proiettività nel mondo, diventano inferiori al necessario, perché i vecchi ordinamenti nazionali sono figli di tempi che dalla globalizzazione, da tutto quello che sta avvenendo, vengono pesantemente sfidati. E pensiamo a quello che sta avvenendo in Catalogna con gli arresti e gli sviluppi che potrebbero avvenire nei prossimi giorni. Ma cominciamo appunto dal primo libro. Non sono razzista ma la xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura, Feltrinelli editore. Gli autori sono un sociologo di professione che insegna sociologia dei fenomeni politici alla IULM di Milano, che è anche parlamentare, presidente della commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, molto impegnato sui temi dell'immigrazione, dei diritti. Ha scritto un libro anche relativo all'universo carcere, abolire il carcere nel 2015. Prima aveva scritto un libro dal titolo provocatorio Accogliamoli tutti, e in questo caso ovviamente stiamo riparlando dell'immigrazione. E il coautore è un avvocato, Federica Resta, che è dottore di ricerca in diritto penale, funzionario del Garante per la protezione dei dati personali. Vi dico subito, prima di presentarvi l'autore e di lasciargli la parola, i punti fondamentali per cui questo libro vale la pena di essere letto, comunque la pensiate. È un libro militante, certo, è un libro militante, perché gli autori sono militanti, non si sottraggono a dire esplicitamente di essere molto critici nei confronti della modalità politico-istituzionale legislativa e di quella culturale e mediatica con cui in questi anni abbiamo affrontato la questione dell'immigrazione. Io vi dico solo quattro flash tratti dal libro. Poiché la domanda è non sono razzista ma, del titolo, qui non c'è scritto che gli italiani sono razzisti, e pur criticando in maniera netta la modalità in cui alcune forze politiche, gli imprenditori della paura, insomma, cavalcano questo tema, c'è questa frase che vi leggo così vi levate i dubbi. Pagina 25. Allo stesso tempo non c'è stato finora in Italia un vero e proprio partito razzista come nella gran parte dei paesi europei. Diciamo questo perché la Lega Nord e Fratelli d'Italia, perfino Casa Pound, certo attraversati da potentissime tentazioni razziste e promotori in prima persona di mobilitazioni anche assai aggressive, non hanno avuto l'ostilità anti-immigrati come esclusivo connotato qualificante. Ecco, quindi innanzitutto qui non c'è un giudizio, come vedete, se non su un fenomeno più complessivo che attraversa la politica, la comunicazione e la percezione degli italiani, primo fattore. Quindi sgombratevi dall'idea che sia un libro elettorale, no, assolutamente no. La domanda di fondo è: quali fenomeni concorrono a renderci, nella percezione pubblica rilevata dai sondaggi, progressivamente intolleranti? Sto leggendo la pagina 43, anche al di là delle intenzioni e delle convinzioni. Ecco, è il fenomeno del ritirarsi nel guscio protettivo, descritto da Aldo Schiavone. Su questo il libro, secondo me, fa molto riflettere ciascuno di noi, per dove viviamo, per la concentrazione di immigrati che c'è nel nostro tessuto urbano, per le modalità espressive che si vedono in televisione e in radio per chi fa trasmissioni su questo. E questo è il terzo aspetto che come giornalista mi piace molto. C'è poi la seconda parte del libro, molto utile, perché vi fa riflettere su come noi abbiamo, con le nostre leggi, affrontato in maniera fallimentare, dagli anni 90, con la prima legge, quella Martelli, il fenomeno, perché non siamo riusciti a darci un modello radicato nel territorio, comune a livello nazionale, di integrazione e distinzione tra chi è in regola. Mentre invece noi abbiamo avuto adozioni normative, dopo la legge Martelli abbiamo avuto la Turco-Napolitano, poi abbiamo avuto la Bossi-Fini e siamo già agli anni 2000, poi abbiamo avuto il ritorno al reato di clandestinità e siamo al 2008, e poi arriviamo al decreto sicurezza Minniti in questo 2017, ma tutti concentrati sull'aspetto repressivo. E qui vi si spiega che cosa vuol dire. Infine, mia ultima osservazione, leggete nell'ultima parte del libro le contraddizioni che il sistema CIE implica rispetto a qualunque idea di integrazione nel nostro paese. Contraddizioni che non sarebbe nostro interesse alimentare, perché con questo sistema noi rendiamo pressoché impossibile l'avvio di un progetto di inserimento anche per chi è in regola. Ecco, allora io mi limito a dire che per tutte queste ragioni vale la pena di leggere questo libro militante. È con noi Luigi Manconi e io molto lo ringrazio, che è uno dei due autori, come avrete immaginato, e molto lo ringrazio per averlo scritto e per essersi reso disponibile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie a lei e agli ascoltatori. Spero che nella mia sintesi non abbia commesso errori, nel qual caso mi corregga immediatamente. No, non c'è nulla da correggere, perfetto. Allora, prima cosa, le chiedo questo. Domenica avviene una svolta storica in Europa, perché avviene in Germania, ma per la prima volta nel Parlamento tedesco, probabilmente tra l'11 e il 14% saranno i voti conseguiti da una forza politica che, a differenza di quelle che lei ha citato qua, fa invece, e lo fa in Germania, sua identità costitutiva su quella del no agli stranieri. Cosa può cambiare questo? Penso che possa cambiare qualcosa esattamente per il fatto che ciò accade in Germania. Chi conosce anche superficialmente la storia di quel grande paese sa che lì la questione del passato e dunque della sua riproposizione con gli incubi e le ansie che può riprodurre è stato problema nazionale dall'immediato dopoguerra a oggi, e che esattamente la centralità della questione del passato, del rapporto col nazismo delle nuove generazioni, del rapporto col razzismo, del rapporto con l'antisemitismo, ha attraversato la storia contemporanea della Germania, ponendo delle difese, organizzando delle resistenze culturali e etiche affinché quei fantasmi non si riproponessero. Ebbene, quei fantasmi possono riprodursi. È una lezione estremamente importante. Il passato che non passa è un connotato della contemporaneità e dunque anche la Germania può ritrovarsi a combattere col proprio passato e con la minaccia di una sua, certo minoritaria, più che minoritaria, riproposizione, ma con ciò che implica, ovvero il penetrare nel senso comune, nella mentalità di parole, comportamenti e pensieri che sono antidemocratici. Questo è un dato che pensavamo la Germania avesse in qualche modo combattuto e vinto. Così non è. Come è stato possibile, per lei che fa anche politica attiva, come è stato possibile che dagli anni 90 a oggi la politica, io ci metto dentro la sinistra, la destra, hanno governato in maniera alternativa, quindi insomma le responsabilità di governo sono storicamente condivise, ciascuno magari pensandone male degli strumenti legislativi adottati dal predecessore, però io li ho elencati gli atti legislativi più importanti. Come è stato possibile che in 20, più di 20 anni la politica non capisse che non istituzionalizzando un modello di integrazione da una parte, poi lo si può diversamente definire rivolto a chi, possiamo essere un paese come l'Australia che fa le quote anche per capitale umano formato, possiamo, si può discutere, questo è chiaro che le sensibilità politiche sono diverse, ma noi non abbiamo nemmeno uno, cioè noi nei centri li lasciamo lì, lei lo descrive benissimo, lo descrivete benissimo, nei CIE eccetera eccetera, li lasciamo lì reclusi. E nel tempo abbiamo cambiato il tempo in cui possono essere reclusi, e poi ci sono casi come quelli dei terroristi, del terrorista tedesco di dicembre del 2016, che addirittura poi escono, vanno in Germania, anche lì vengono segnalati, identificati e mettono pure le bombe. Ma com'è possibile che la politica non abbia capito che senza quella scelta alla fine la gente si sarebbe sentita più insicura e tanti italiani legittimati a esprimere i giudizi di ripulsa che si sentono e si vedono, che anni fa non c'erano? Certo. Guardi, voglio riferirmi esclusivamente all'Italia perché è la realtà che meglio conosco. Allora, tutte le forze politiche, tutte come lei giustamente ha sottolineato, hanno trattato l'immigrazione quasi fosse un accidente occasionale o una emergenza comunque da affrontare con strumenti d'eccezione per rimuoverla e bandirla. Cioè c'è un clamoroso errore culturale, di ignoranza, non si può chiamare altrimenti, di assenza di consapevolezza dei dati geopolitici, statistici, economici e demografici, che sono quelli che determinano i flussi migratori come dato strutturale, permanente e destinato a riprodursi nel tempo. Bene, tutte le forze politiche, ripeto, tutte in Italia e in Europa, hanno pensato che così non fosse. E quindi quando in Italia gli stranieri erano appena 500.000, parlo della fine degli anni 80 e dei primi anni 90, non si è pensato che quel flusso era destinato a diventare estremamente più ampio e a decuplicarsi come poi è puntualmente accaduto. Quindi non c'è stata nessuna politica sui tempi lunghi, nessuna strategia lungimirante, e il tutto è stato giocato con un opportunismo che io definisco strepitoso se lo consideriamo alla luce di un dato che forse sfugge praticamente a tutti. La più grande sanatoria, cioè la regolarizzazione di stranieri irregolari in Italia, è stata opera del governo Berlusconi-Maroni, che nel corso di una notte e grazie a un click ha regolarizzato oltre 300.000 stranieri irregolari, quelli che Maroni e Berlusconi chiamavano clandestini, e l'hanno fatto esattamente per un motivo, perché si trattava di oltre 300.000 persone che lavoravano nel nostro paese in nero, contribuivano a surrogare ciò che il sistema di welfare aveva smesso di fare e contribuivano alla produzione di ricchezza nazionale, allevavano i nostri figli, curavano i nostri vecchi. Bene, questa sanatoria come è stata trattata? È stata nascosta dal governo che l'ha voluta, quel Berlusconi Maroni, ed è stata riproverata come una colpa a quel governo dall'opposizione di sinistra, laddove si trattava di un'azione semplicemente razionale che rendeva legale ciò che era irregolare, con ciò portando ordine laddove c'era disordine, con ciò regolarizzando laddove c'era marginalità, con ciò contribuendo alla persistenza e al miglioramento di un sistema che era entrato in crisi, quella della protezione sociale. Non so se questo esempio è sufficiente. No, a me pare un esempio del fatto che queste politiche, quelle che hanno un impatto di lunghissimo periodo, come sono nel welfare, quelle previdenziali, quelle della bilancia demografica, dovrebbero essere politiche di fortissima condivisione, perché le scelte che si prendono hanno degli effetti attuariali, come si dice in senso matematico, proiettati nel tempo. Invece in Italia questa è stata una delle ragioni per cui poi alla fine noi non ce l'abbiamo un modello. Però io vengo all'oggi, a questi ultimi mesi, dal vostro punto di vista, perché questo lo toccate ma non lo toccate, cioè criticate la parte tra virgolette penale repressiva del decreto Minniti, ma il problema più ampio è la domanda che molti si fanno: con Minniti è iniziata secondo lei una fase nuova davvero in cui si ribaltano i presupposti di insufficienza delle politiche, si allunga lo sguardo verso l'Africa, i paesi di provenienza, si dà contemporaneamente una stretta nel Mediterraneo sugli arrivi, si ridimensiona il fenomeno, eccetera eccetera, o invece lei vede solo la parte repressiva dicendo vabbè, facciamo finire a qualunque costo gli arrivi, per il resto si vede? Allora, nella pratica, cioè nella concretezza, nella materialità delle politiche, vedo solo la prima parte, poi ascolto le parole che annunciano la seconda fase, quella dell'integrazione, ma in questo io vedo già un grave limite. La prima parte, quella del controllo, dell'adozione di strumenti e di politiche severe, del controllo maggiore degli accessi, non può essere adottata prima, e temo molto tempo prima che venga adottata quella successiva dell'integrazione. Le faccio l'esempio più evidente. Noi non possiamo dichiararci soddisfatti, addirittura compiaciuti, del fatto che gli sbarchi sarebbero diminuiti. Attenzione, sarebbero. Perché intanto già c'è una tendenza opposta, che gli sbarchi diminuiti a luglio e agosto tendono nuovamente a crescere. Ma poi tende a crescere addirittura del 170% il flusso che, bloccato verso l'Italia, si sposta verso la Spagna. Questo è un grande successo? Vi sembra un risultato strepitoso? Io qua devo rispondere da osservatore, per i politici che rispondono all'opinione pubblica nazionale, altro che. Altro che. Poi aggiungo, ma ci siamo chiesti dove quegli individui non imbarcati dagli scafisti, non sbarcati sulle coste italiane, sono finiti? Ecco, la risposta a questa domanda fa l'osservatore cinico giornalista, che emerge da qui, dai messaggi che ci arrivano, è problemi loro, mica possono essere problemi nostri. E qui qua andiamo a una categoria culturale di grandissima importanza, cari ascoltatori, l'indifferenza, perché che è una parte del libro. Però, dottor Giannino, mi permetta di dire questo. Io credo che sia un errore micidiale, autolesionismo, immaginare che domandarsi dove siano finiti i non sbarcati, coloro che non hanno attraversato e non sono morti nella traversata, pensare che tutto ciò sia umanitarismo, sia filantropia, è un errore gravissimo. Buonismo, come si dice. Appunto, questa parola sciagurata e indecente, buonismo, in realtà nasconde un grave vizio, l'autolesionismo. Tutto ciò che noi non riusciamo a prevedere, a controllare, si ritorcerà contro di noi. Forse davvero qualcuno immagina che coloro che in questo momento, con la posizione di un tappo, lì nel flusso Libia Mediterraneo sono stati bloccati, lo siano per sempre? Davvero pensiamo che non vi siano mille altre rotte che ci riporteranno in Italia quelli che momentaneamente sono stati bloccati? Lei ha usato una parola per me davvero impronunciabile e l'ha usata attribuendola ad altri, quella del buonismo. Ma il buonismo è stato uno degli espedienti retorici ideologici più indecenti usati in questi anni, perché con buonismo si sono in realtà rifiutate le categorie più razionali, intelligenti e sagge della politica, perché preoccuparsi del fatto che in Africa lo sviluppo demografico è 10, 20, 30 volte maggiore di quello dell'Italia e dell'Europa non è buonismo, è analisi scientifica della realtà che deve suggerire politiche conseguenti. Io nel libro, noi nel libro e io nella mia attività politica non ho mai parlato da 25 anni di solidarietà, di filantropia, di umanitarismo, ho parlato solo e esclusivamente di due categorie che so esserle care: economia e demografia. L'immigrazione si spiega con queste due categorie, economia e demografia, e sono le stesse categorie da usare per arrivare a un governo saggio dell'immigrazione. Allora, io ringrazio Luigi Mancone per le parole che ha pronunciato e torno a dire a voi ascoltatori: questo libro, Non sono razzista ma Feltrinelli, vale la pena di essere letto. Vedo dai messaggi che state dicendo: siete impazziti, volete riaprire le porte, vi ammannite. No, guardate, questo libro nasce da una domanda profonda: cosa e come sarà necessario farlo, e sarà una questione lunga, perché gli italiani non abbiano, tanti di loro, non abbiano la percezione di essere tra virgolette minacciati e non diventino indifferenti a ciò che attraversano nella loro vita alcuni milioni e milioni di persone? Quindi è una domanda seria che chiede il fondamento di una politica diversa, organica, non fatta solo di intanto tiriamo su un muro, perché con i muri noi abbiamo costruito un sistema che ci fa identificare chi non è in regola, non ci consente né di trattenerlo né di rimpatriarlo, chiudiamo gli occhi rispetto a tutto quello che succede, oltre a non integrarlo, e di considerare clandestino chi magari aveva un lavoro ed era regolarissimo in Italia, poi il lavoro lo perde, come capita a chiunque abbia un lavoro anche in Italia, e a quel punto diventa clandestino. Non ha senso, no? E tante contraddizioni di questo tipo. Quindi questo libro va letto. Vi dico solo questo: le parole di Liliana Segre, una persona a cui sono carissima, come tutti coloro che si occupano di Shoah nel nostro paese, che dice quanto segue. Bisogna comunque stare sempre molto attenti, perché l'indifferenza, mi sono battuto perché questa parola apparisse sul muro di pietra al binario 21, che è quello alla stazione di Milano da cui partivano i treni per i lager degli ebrei, perché l'indifferenza è sempre in agguato. C'è la tentazione di girare la testa dall'altra parte quando un dramma non ti riguarda. Ecco, questo è il più alto rischio di 25 anni di errori per l'Italia su questa faccenda. Grazie a Luigi Manconi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati questo venerdì 22 di settembre, dopo aver parlato del primo libro, il difetto di fondo dei 25 anni di non politica dell'immigrazione nel nostro paese, andiamo a un tema che è collegato, perché immigrazione, stati, confini, spostiamoci in Catalogna, stato nazionale che arcignamente riserva le manette a un problema di evoluzione dell'autonomia, che ha negato anche 3 anni fa, Rajoy negò più risorse finanziarie alla richiesta che la Generalitat della Catalogna avanzava, e poi è stato a braccia conserte di fronte al fatto che nasceva una proposta di referendum, cioè di richiesta di voto per decidere da parte dei catalani se rendersi indipendenti o meno, tranne poi mandare la Guardia Civile a pochi giorni dal referendum del 1 ottobre, e vedremo se le manette, la legge penale, potrà essere la risposta a un problema che invece investe un tema di fondo. Le costituzioni unitarie e indivisibili devono essere considerati feticci intoccabili, o l'evoluzione nel tempo deve adeguarle. Nel mondo di oggi della globalizzazione, dove la proiezione e l'attrattività nel mondo, quindi l'attrattività, i flussi in entrata e la proiezione dei flussi in uscita di capitale umano, ma di capitale finanziario, di intangibles, non è fatta da sistemi nazionali in concorrenza, come molti di voi credono, è fatta da grandi aree metropolitane incardinate in economie regionali ad alto tasso valore aggiunto. Sono quelle che si proiettano nel mondo, come è il caso di Barcellona e Catalogna, come è il caso di Parigi e France, come è il caso di Monaco di Baviera e il Bayern. Ecco, costituzioni che non riescano ad adeguarsi a questo e mandano gli agenti carcerari sono da difendere? Ma ne siamo proprio sicuri? Ne stiamo parlando in molte trasmissioni in questi giorni, anche stamattina ne ho parlato con Luca Telese, che mi ha molto stupito, di sinistra, ma difende lo Stato nazionale, intangibile, tirano fuori i miei avi, morti nelle trincee. Morti nelle trincee contro che cosa? Contro l'Austria che disconosceva le nazionalità e ne è stata poi travolta. Però allora, per discutere di tutto questo, un accademico che da molti anni dedica parte della sua attenzione preminente, molti libri, proprio a questa questione, stati nazionali, decentramento, federalismo, ecco, Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena. Io vi invito a leggere il suo più recente libro, che è del 2017, Un'idea elvetica di libertà, editrice La Scuola, e troverete il fondamento di un'altra visione rispetto all'Europa degli Stati, che tra loro poi tra l'altro litigano ferocemente, un'idea di la Svizzera dei cantoni e dei comuni, indipendenti su molte materie, non con le quote parti di sovraliquote come facciamo in Italia. Grazie di essere con noi, Carlo Lottieri. Grazie per l'invito. Prima di andare alla Svizzera, che cosa pensa di quello che sta avvenendo in Catalogna? Penso che sia un episodio straordinario per tanti aspetti e che riguarda certamente la Spagna, al di là della Catalogna, perché è chiaro che un eventuale distacco della Catalogna comporterebbe probabilmente nell'arco di qualche anno un disfacimento della Spagna stessa, perché ci sono rivendicazioni in Galizia, ci sono rivendicazioni nei Paesi Baschi, eccetera, ma riguarda in realtà tutta l'Europa continentale, che è aggrappata alla vecchia statualità, prima monarchica e poi parlamentare, e che non riesce appunto ad adattarsi, come giustamente tu dicevi, a questa evoluzione dei tempi, nella quale le preferenze dei cittadini, degli individui, diventano sempre più importanti, sempre più cruciali, e non è quindi più ammissibile una certa idea di legalità imposta dall'alto, una certa idea di politica che prescinde appunto dalle volontà dei singoli. Quindi credo che sia un fenomeno straordinario, un episodio straordinario, non credo che il potere centrale potrà farcela. Una delle considerazioni storiche opposte all'ampliamento fino ai limiti dell'indipendenza totale dell'autonomismo da parte di stati centrali è: queste cose funzionano solo per gli stati piccoli come la Svizzera, non per quelli grandi. Il secondo argomento, come aggiunta, è diventato da un anno e mezzo: ma guardate la Brexit che esce dall'Unione Europea, che non sa che pesci prendere. Proprio in queste ore la May ha scelto Firenze per pronunciare un discorso che si attende come risolutivo per i chiarimenti su come vogliono impostare la Brexit. Queste obiezioni che risposta hanno? Ma come dire, non sta a noi decidere, credo. Voglio dire, in un mondo di persone adulte, di persone che rivendicano legittimamente la loro libertà, la dimensione ottima dei governi, che è un vecchio tema, è qualcosa che va lasciato alle scelte e agli errori dei singoli e delle popolazioni. In fondo non dimentichiamo una cosa: in Catalogna stanno battendosi per poter votare, questo è un dato non irrilevante, chiedono di votare, ed è una vecchia battaglia, diciamo così, quella della rappresentanza e in più in generale direi quella del consenso. E quindi, al di là delle valutazioni che esternamente noi possiamo fare sul futuro dei britannici, sul futuro dei catalani, dobbiamo pensare che sono loro che devono fare le loro scelte e ne pagheranno eventualmente le conseguenze. Questo credo che sia cruciale. In generale poi io credo che la concorrenza istituzionale è un dato cruciale. Io sono molto legato alla vecchia tesi di Jean Bachelet, un libro degli anni anni 70, il quale sostenne quel suo libretto mirabile sul rigido capitalismo, che se l'Europa è diventata quella che è diventata, cioè il centro della scienza, della tecnologia, del successo economico, è perché è sempre stata divisa per secoli e secoli in tante giurisdizioni in concorrenza fra di loro. Il segreto della Svizzera è lì: 8 milioni di abitanti divisi in 26 staterelli, con fiscalità, regole diverse e quindi con una concorrenza fortissima anche sul piano delle istituzioni. L'obiezione che viene in Spagna dal governo centrale alla Generalitat catalana è: secondo la nostra Costituzione il vostro referendum non si può fare perché tutti gli spagnoli devono poter decidere riforme, più autonomia per la Catalogna, per i Paesi Baschi, per la Navarra, come per chiunque altro. È lo stesso fondamento con cui la Corte Costituzionale italiana nel 2015 respinse il referendum che chiedevano il parere dei veneti, che erano stati promossi in Veneto dalla giunta veneta, sull'idea di arrivare a una vera e propria scelta di secessione. E la Corte Costituzionale disse, italiana, nel 2015, no, l'articolo 5 della nostra Costituzione è indisponibile, neanche soggetto ipoteticamente a revisione costituzionale. Queste sono le obiezioni del costituzionalismo centralista. Come si risponde? Ci sono due risposte, io credo. La prima è che questo principio di legalità, cioè l'idea che l'ultima parola spetti alla legge, è qualcosa che è assolutamente inammissibile. Se accettiamo un principio di questo tipo, dovremmo allora accettare la legalità di tutto quanto fu fatto da Hitler tra il 33 e il 45. È chiaro che in tutte le società libere c'è sempre, come dire, una dialettica, una tensione tra ciò che è legale e ciò che è legittimo. Non a caso le leggi cambiano, quindi vuol dire che costantemente noi rimettiamo in discussione cose che prima consideravamo giuste e fondate. In secondo luogo, la democrazia è definita dai soggetti stessi che vogliono partecipare al gioco democratico. Il fatto, noi non sappiamo se i catalani siano catalani o spagnoli, lo sapremo se ci sarà il referendum, cioè sta a loro decidere entro quale, come dire, recinto vogliono costruire le loro istituzioni. Diversamente avremmo dovuto esprimere lo stesso giudizio per quello che riguardava l'Algeria o l'India, dicendo che non aspettava gli algerini stabilire se erano algerini o francesi, o gli indiani stabilire se erano indiani. Tutte le forme di autodeterminazione nella storia avvengono attraverso cose di questo tipo. Sono rarissimi i casi, per così dire, di autodeterminazione octroyée dall'alto. Questo è un fatto. Allora, adesso abbiamo l'informazione sul traffico e dopo un minuto torniamo con il professor Carlo Lottieri. Stiamo parlando del libro Un'idea elvetica di libertà, editrice La Scuola, serve a capire cosa succede in Catalogna. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati con il professor Carlo Lottieri. Un'idea elvetica di libertà, editrice La Scuola, è un libro, un bel libro corposetto, sono 218 paginette, in cui, se siete curiosi di capire la chiave del successo della Svizzera dal 1300 in avanti e la radicale scelta di autodeterminazione rispetto agli imperi in via di formazione degli stati moderni dell'epoca in Europa, ma soprattutto nel tempo, la chiave del successo di fronte all'economia nelle quattro diverse ondate di rivoluzione industriale fino all'attuale della globalizzazione finanziaria dei beni e dei servizi. Perché? Perché è un ordinamento che consente ai comuni, dalla scala più bassa, quindi amministrativa, e poi ai cantoni, una autonomia rispetto alla confederazione fortissima, a cominciare dalle tasse, ognuno in concorrenza diretta con gli altri. Quest'idea della Svizzera, professor Lottieri, molti ritengono che sia una specie di illusione letteraria. Perché? Ma perché ritengono che la Svizzera sia, ed è in parte vero, in contrasto con la storia moderna. La Svizzera è, per certi aspetti, un deposito di istituzioni ancora medievali, premoderne. Basti pensare alle Landsgemeinde, cioè le assemblee in cui, ora solo in due cantoni in realtà, si decide per alzata di mano, come si faceva appunto molti secoli fa. Oppure appunto questa, come dire, localizzazione del potere che era caratteristica di tutta Europa, che altrove è venuta meno. Basti pensare che la Germania aveva centinaia di giurisdizioni ancora nella prima metà dell'Ottocento, e che appunto sembrerebbe questo insieme di realtà, le proprietà comuni che non sono né private né pubbliche, eccetera eccetera, una sopravvivenza di un'epoca passata. Quello che è interessante però è che queste sopravvivenze si rivelano oggi molto più, come dire, postmoderne, contemporanee, attuali, rispetto invece agli stati otto-novecenteschi. Prima giustamente lei faceva riferimento alla globalizzazione, faceva riferimento al fatto che per noi oggi è fondamentale internet, cioè l'accesso in tempo reale a informazioni ovunque, ma che vogliono dire anche scambi e così via. Non sappiamo cosa sarà tra qualche anno il sistema finanziario e monetario con la rivoluzione delle criptomonete, che probabilmente farà saltare le banche centrali e anche le banche commerciali per certi aspetti. Ebbene, in questo nuovo mondo io credo che una localizzazione dei poteri alla Svizzera, basata quindi su responsabilità, su concorrenza, su grande mobilità dei fattori, sia molto più adatta ai tempi che si aprono. Come ricordavamo prima, tutte le forme di autodeterminazione di solito nella storia nascono da conflitti politici e da contestazione della base di legittimità di ordinamenti precedenti. Le chiedo, da quello che sta avvenendo, il capo della Generalità catalana, cioè Puigdemont, sta sfidando questa roba per la ricerca e l'aspettativa di diventare una specie di eroe nazionale detenuto? Questo non sappiamo, voglio dire, sulle intenzioni e sulle aspirazioni si può dire tutto e contrario di tutto. Quello che però è all'opera, a mio parere, in Catalogna in questo momento, al di là delle azioni, dei protagonismi, delle ambizioni legittime anche di questo o quell'attore, è il contrasto tra lo Stato, l'obbligo politico, il verticismo delle istituzioni, della Costituzione scritta una volta per sempre, e le logiche invece del consenso, della democrazia, della volontà popolare. In definitiva, gli armati che arrivano, come dire, a Barcellona, che sottraggono le schede elettorali, un gesto, come dire, anche simbolico, di un'importanza incredibile, no? O che arrestano alcuni personaggi, diciamo, del governo, alcuni funzionari essenzialmente del governo catalano, appunto per impedire il voto. Bene, tutti questi fatti ci dicono che questo conflitto fra democrazia e Stato è fondamentale per tutti noi, perché siamo vissuti in due secoli nell'illusione di una possibile pacifica combinazione di questi due mondi, la libertà da un lato e lo Stato all'altro. Questo compromesso sta entrando in crisi, ci aspettano tempi complicati ma interessanti. Il caso, ma la storia ricca di questi casi, a cavalla una vicenda analoga e anch'essa con una storia plurisecolare alle spalle. Nel Kurdistan il governo regionale guidato da Barzani ha convocato in questi stessi giorni un referendum per l'indipendenza nei confronti dell'Iraq, contro il quale sono schierati, per ragioni storiche chiarissime, avendo sempre preso i curdi, Erdogan, durissimamente contro, l'Iran sciita, durissimamente contro, il governo iracheno ha fortissima influenza iraniana, e sorpresa sorpresa gli stessi Stati Uniti, che all'ONU hanno preso una posizione molto dura contro l'ipotesi di referendum. Abbiamo usato come Occidente i curdi in prima linea contro Saddam, in prima linea contro l'ISIS, e adesso diciamo alla loro volontà di autodeterminazione: voi non potete votare. Che analogie ci sono, Volottieri? Sono analogie molto, molto interessanti, perché ci dicono appunto il tema un po' che abbiamo toccato prima, come il principio autodeterminazione, che è stato di fatto introdotto per il terzo mondo e sempre negato nel mondo occidentale, una volta che però viene affermato, che viene riconosciuto, poi, come dire, va come dire, accettato nelle sue conseguenze, no? Ma in realtà io credo che per certi aspetti sarà più facile, in un certo senso, per i curdi ottenere un certo sostegno internazionale senza conseguenze, sia chiaro, no? Solamente formale, nominale, perché i curdi sono in un mondo lontano, e poi lasceremo fare a Erdogan e gli altri soggetti. Esattamente, all'Iran. Che invece un sostegno alla Generalitat catalana. Ma lei si aspettava il silenzio totale? Lei si aspettava il silenzio totale dell'Unione Europea e di tutti i grandi stati europei di fronte alla vicenda spagnola catalana? Ma non dico adesso che ci sono gli arresti, in tutti i mesi in cui era evidente che si sarebbe arrivato a questo, sono stati tutti zitti, perché? Certamente, perché è in gioco, appunto, come dicevo prima, è in gioco la finzione ridicola di un compromesso tra libertà e violenza, dominio, carceri e così via, che è la logica dello Stato. Dietro allo Stato, non dimentichiamolo mai, c'è il potere di alcuni uomini su altri uomini, variamente, come dire, c'è il monopolio della forza legittima, insomma. Esattamente. Allora è chiaro che quando si parla di Catalogna poi si parla anche di Fiandre, si parla di Corsica, di Scozia, si parla di tante altre realtà. Quieto a non muovere, dicevano, no, gli antichi, e quindi è chiaro che c'è una coalizione a tenere le cose così come sono. C'è una sorta di nuovo congresso di Vienna che vuol designare un ordine. Esatto. Allora, io lo so, cari ascoltatori, che finiva così. Nella prima parte avete protestato perché vi siamo sembrati troppo pro-immigrazione, mentre invece vi abbiamo interrogato su un difetto culturale della nostra mancanza di una visione. Io sono per una politica strettamente controllata dell'immigrazione, ma con scelte di lungo periodo fatte sul capitale umano. Pensate, il mio modello è l'Australia. E in questa seconda parte dite che siamo dei visionari, dei matti, dei leghisti. No, non è così. L'autodeterminazione è un fondamento, è un diritto naturale delle libertà, per chi crede che esistano questi diritti naturali. Se siete tutti statalisti e pensate che il diritto è solo il diritto positivo dello Stato, che decide lui in quanto immutabile perché lo hanno deciso legislatori decenni fa, secondo me stiamo combattendo effettivamente su due idee profondamente diverse di libertà. Grazie al professor Carlottieri. Leggete Un'idea elvetica di libertà, editore della scuola, vediamo che cosa avverrà in Catalogna e vediamo quanti voti prende l'Alternative for Deutschland domenica in Germania. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti la Belva con me, Carlo Alberto Canavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.